anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Non ci perdiamo neanche un singolo suono della sigla della sigla di Basement Records. Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa era la sigla di Basement Records per passare insieme il sabato sera qua sulle frequenze di Radio Wombat. E quindi una nuova puntata di Recuperi Vinilici, puntata speciale, puntata speciale perché vi avverto subito, saprete come vanno qua le cose a Basement Records. Ogni puntata è una sorpresa e stasera sarà una puntata per il vostro penafoco più Dea Kalì del solito, con un solo deck, il computer e tantissime altre cose a crocchi dovuti fare come sempre per necessità, e quindi sarà una puntata più in stile Dea Kalì, visto tutte le cose che devo mettere insieme da solo, oltre ad avere solo un singolo deck dove mettere i dischi, come ormai un classico delle ultime puntate. Però vabbè, questi sono dettagli tecnici che giustamente a voi e anche probabilmente a noi non ce ne frega niente, perché è anche il bello. Questo è il bello di Basement Records, è il bello di Radio Wombat, e quindi va bene così, è la sua peculiarità. E allora, come sempre, iniziamo ricordandovi i modi per mettervi in contatto con noi qui a Radio Wombat. Il sito è sempre radiowombat.net, dove potrete ascoltare lo streaming e i podcast della radio. La nostra frequenza in onde mediocri sul vostro autoradio della macchina o di casa, se abitate nei dintorni di Firenze, è sempre sulla frequenza 1359 1359 in onde medie sulle vostre radio e radioline. La nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social sono sempre su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Cercateci, trovateci, siamo sempre lì. E allora adesso inizieremo con il primo vinile di recupero di stasera, che come vi ho ricordato nelle ultime puntate, questi vinili provengono tutti dalla associazione senza scopo di lucro Mani Tese di Scandicci. E questo era un disco... In questo caso un 7 pollici, un EP. Stasera sarà una puntata dove metterò sia 7 pollici che 12 pollici. E il primo è un 7 pollici che, quando l'ho visto, quando ero lì a scartabellare tra i nuovi arrivi vinilici di Mani Tese, non potevo non prendere, perché una copertina... Con i colori, il rosso e il nero, che recita giovani contro. Come potevo fare a non prendere un disco del genere? E infatti preso subito a scatola chiusa. Però come appunto succede quando prendi i dischi a scatola chiusa, poi ritroviamo delle sorprese, che è anche il bello dei recuperi vinilici, secondo me. Appunto, questo sembrava veramente un disco anarchico, giovani contro, con i colori rossi e neri. Pensavo a canzoni anarchiche, con tra l'altro un retro dietro della copertina che ha questa frase che vi leggo: il cielo, il mare, un fiore hanno senso solo nella tua voglia di vivere l'ideale. C'è la volontà di lottare per una società diversa. Allora forse per realizzare te stesso il denaro non ti basterà. L'ho preso subito, immediatamente. Il disco in questione, il 7 pollici in questione, è cantato e suonato in entrambi i lati da questi fantomatici ragazzi del primo maggio. Quindi io ero già partito con tutte le mie elucubrazioni mentali. Il lato A, tra l'altro, si chiama 7 maggio 1972. Non sapendo a cosa si riferisse, mi sono informato e mi ero fatto già tutto il mio viaggio. E il 7 maggio del 1972 era il primo giorno delle elezioni che si svolgevano quell'anno, delle elezioni fondamentali per la Repubblica Italiana, però appunto non pensavo che fosse riferito al giorno delle elezioni, e invece il vostro Penapoco si era già fatto il suo immenso viaggio, appunto andando a ricercare cosa fosse successo quel 7 maggio del 1972. Avevo trovato questa informazione che ora da qui collegherete come mai vi sto dicendo questa cosa, perché in quel 1972, anni pesanti, anni di piombo, e il 5 maggio del 1972 a Pisa, durante gli scontri tra la polizia e la cosiddetta sinistra extraparlamentare, che cercava di impedire un comizio del movimento sociale nella città toscana, un giovanissimo anarchico, Franco Serantini, di poco più di 20 anni, fu pestato a sangue dalla celere. E io, non sapendo niente, avevo già collegato questo disco a questo fatto. E questo povero ragazzo, tra l'altro, morì due giorni dopo, appunto il 7 maggio del 1972, proprio nel mentre il 93% degli elettori italiani affollava le urne per le votazioni. Tra l'altro, nota a margine, in quella importante tornata elettorale vinse la DC, come vi potrete immaginare, e tra l'altro il movimento sociale raddoppiò il proprio consenso, raggiungendo il record di consensi della post caduta del fascismo. Però tutte queste mie elucubrazioni mentali se ne sono andate a farsi benedire quando poi effettivamente ho ascoltato il disco, che ahinoi non è nient'altro che un disco di pura propaganda elettorale per quelle elezioni del movimento socialista. E questo è anche il bello dei recuperi vinilici, e quindi tutte le mie storie sui morti e uccisi dalla celere se ne sono andati un po' a farsi benedire, ma come si dice, appunto, è anche il bello dei recuperi e dei dischi che ti impressionano dalla copertina, prima di sentirli, e poi scopri che sono un'altra cosa. E il primo lato, appunto, quello chiamato 7 maggio 1972, cantato dai ragazzi del primo maggio, è pure semplice propaganda elettorale per il Partito Socialista. E invece il secondo lato, che è quello che andremo ad ascoltare, è una canzone quasi pop folk, sempre cantata dai ragazzi del primo maggio, e adesso ce la andremo ad ascoltare. La puntina è pronta sul solco, e questa è sempre Basement Records, ovviamente qui su Radio Wombat. E dove se no? Thank you. cielo, il mare, un fiore hanno un senso solo se nella tua voglia di vivere l'ideale c'è la volontà di lottare per una società diversa. Allora forse, per realizzare te stesso, il denaro non basterà. Qui ripartiva il messaggio elettorale del candidato per quelle elezioni che poi appunto vi ho detto come andranno a finire, però era un documento che andava fatta ascoltare anche solo per la scelta che avevo fatto. Mi ero preparato già tutta la storia, che però, come vi ho già detto, il bello di Basement Records è anche quella, è caduto tutto in... è andato tutto a tarallucci e vino. Però il prossimo disco che ho recuperato, è sempre sulla stessa linea, però... questa volta non è niente di elettorale. Infatti questo 33 giri che ho sotto le mani in questo momento si chiama Canti Rivoluzionari Italiani, con il sottotitolo in inglese Italian Revolutionary Song, cantato dal Canzoniere delle Lame, un famoso gruppo di Bologna che ricantava tutte le canzoni partigiane, e questo appunto è il disco che mi è capitato tra le mani. Non potevo non prenderlo, anche perché appunto basta leggere la scaletta di questo long plane, di questo 33 giri. E ci sono tutti i grandi canti di lotta partigiani dei lavoratori: noi vogliamo l'uguaglianza, le otto ore, sono la Mondina, Contessa di Pietrangeli, per i morti di Reggio Emilia che ci andremo ad ascoltare, Bella Ciao, Fischia al Vento, Guardia Rossa, Addio Lugano, Bandiera Rossa, l'Internazionale, l'Inno dei Lavoratori, ci sono tutte le canzoni rivoluzionarie di quegli anni. Sicuramente una compilation, diremo ai giorni nostri, di tutti i canti rivoluzionari dopo la guerra e anche durante la guerra, e che hanno segnato anche il periodo storico degli anni 70, anni di cui molto probabilmente è stato pubblicato questo long plane. La canzone che ci andremo ad ascoltare adesso è Per i morti di Reggio Emilia, perché mi faceva molto piacere, soprattutto per le nuove generazioni, ricordare un evento atroce che ha segnato che ha segnato proprio il 1960. Infatti siamo nel luglio del 1960, è un evento che soprattutto per i più giovani che magari non lo conoscono vale la pena di essere ricordato. Partiamo dal preambolo, che l'allora presidente del Consiglio era un certo Fernando Tambroni, non so se avete presente, e appunto in quel luglio del 60 diede libertà di aprire il fuoco alle forze dell'ordine in situazioni di emergenza, messo tra virgolette, e alla fine di quelle drammatiche settimane si contarono 11 morti e centinaia di feriti. L'evento, ovvero la strage di Reggio Emilia, a cui questa canzone è dedicata, è un evento che iniziò la sera del 6 luglio del 1960, quando la Camera Confederale del Lavoro di Reggio Emilia proclamò per il giorno successivo uno sciopero generale provinciale. Quel giorno, quel giovedì 7 luglio del 1960, il corteo di protesta era composto da circa 20.000 manifestanti, un gruppo di circa 300 operai delle officine meccaniche reggiane decise di raccogliersi davanti al monumento ai caduti cantando canzoni di lotta. Nel pomeriggio, verso le 5, una carica di un reparto di 350 poliziotti al comando del vicequestore Giulio Cafari Panico investì la manifestazione pacifica e caricarono, entrando in piazza dal lato opposto dell'ingresso, dei manifestanti, che furono sorpresi e incalzati dai caroselli delle camionette, dai getti dell'acqua e dai lacrimogeni. Gli scioperanti cercarono un rifugio tentando di proteggersi dietro ogni sorta di oggetto trovato: seggiole, assi di legno, tavoli da bar, e rispondendo alle cariche con un lancio di oggetti. Respinte alla disperata la resistenza dei manifestanti, le forze dell'ordine impugnarono le armi da fuoco, cosa che fu legittimata appunto da quel decreto legge di Tambroni, e iniziarono a sparare ad altezza d'uomo. Secondo alcune testimonianze, invece, gli spari iniziarono prima di qualsiasi gesto da parte dei manifestanti. Purtroppo, in quei frangenti, le ricerche storiche appurarono che in quel pomeriggio da parte delle forze dell'ordine furono sparati 182 colpi di mitra, 14 colpi di moschetto e 39 colpi di pistola. Immaginatevi voi, letteralmente una guerra. Letteralmente una guerra. E fra le tante drammatiche testimonianze che ci arrivarono da quel drammatico giorno, terrificante fu quella di Guido Soragni, che disse: un poliziotto arrivato di corsa sparò una raffica di mitra a bruciapelo contro un ferito che morì sul colpo. Un altro ferito, mentre cercava di soccorrere il caduto, venne raggiunto da un'altra raffica di mitra sparata sempre dallo stesso poliziotto. Cioè, immaginatevi voi la scena, stiamo parlando degli anni 60 qua in Italia, e non siamo in mezzo alla Seconda Guerra Mondiale, ma non credo che ci fossero state molte differenze. E di quella drammatica sparatoria esiste anche una straordinaria quanto casuale documentazione sonora incisa da un commesso che aveva portato in un negozio un magnetofono per registrare il comizio sindacale. E furono 35 minuti di grida, di spari, sirene di ambulanze e di polizia. Un'agghiacciante sparatoria, non una guerra ma una fredda carneficina, scrisse la direttrice del settimanale Vie Nuove, settimanale che tra l'altro decise di pubblicare quella registrazione terrificante incidendola su disco, che Pierpaolo Pasolini definì come la più terribile e esplicativa che abbia mai sentito che rappresentasse quel periodo. E quindi adesso ci andremo ad ascoltare Il canzoniere delle lame con Per i morti di Reggio Emilia, in ricordo di quei drammatici momenti del luglio del 1960. E siamo sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Parioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Gali. Morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti. Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi. Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare. Compagno Ovidio Franchi, compagno Afrotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa. E questo era Il canzoniere delle lame di Bologna, che ha cantato Per i morti di Reggio Emilia, canzone storica di lotta incisa da Fausto Amodei. Ed ora passiamo al prossimo 33 giri di recupero, alleggeriamo un po' la situazione. E questa è un'orchestra leggendaria, specialmente in Romagna, perché saprete ormai che è ripartito lo sdoganamento del tanto infamato e tanto vituperato liscio romagnolo, grazie anche agli extra liscio, tra l'altro. band in voga in questi giorni, che stanno rimodernando quello che tra l'altro attraverso gli studi etnomusicografici è una parte che possa piacere o meno, è una parte fondante della musica folk italiana, ovvero quella del liscio. Qui stiamo andando appunto verso il divertimento, verso il ballare, per staccarci appunto dai canti di lotta. E vale la pena appunto ricordare chi era questa formazione, la formazione Castellina Fasi, perché Castellina era il nome d'arte di Roberto Giraldi, fisarmonicista romagnolo, che quando incontrò il sassofonista altrettanto romagnolo Giovanni Fasi formarono insieme quelli che inizialmente vennero chiamati i Gai Romagnoli, che poi molto più semplicemente Orchestra Castellina Fasi. Roberto Giraldi fu anche autore di brani prettamente strumentali, sia da solo che insieme all'autore faentino Carlo Ferrini, e quasi tutti i brani editi fin dall'inizio della loro carriera furono pubblicati dall'etichetta Galletti Boston di Faenza sotto l'egidia della RCA Records, e brani che divennero estremamente famosi. Anche perché basti pensare che appunto l'orchestra Castellina Fasi all'interno del liscio romagnolo era seconda solamente, scusate il gioco di parole, alla leggendaria orchestra di Secondo Casadei, ovvero lo zio di Raul Casadei, che portò all'apice, ai massimi livelli di conoscenza e di popolarità il ballo liscio romagnolo. E mi direte: come mai, caro Penapoco, hai recuperato un disco di liscio? Perché Castellina Fasi io lo conoscevo per un fatto molto più basic, molto più popular, ovvero forse non tutti sanno che praticamente la rubrica della settimana enigmistica, che l'orchestra Castellina Fasi è l'autrice della famosissima direi sigla di Lupin III, quella famosa con la fisarmonica, bellissima tra l'altro, leggendaria, che però non è contenuta in questo disco che ho recuperato per voi, però che è bene precisare in questo caso sia il volume 3 del Best Of dell'orchestra Castellina Fasi. Castellina tra l'altro era il nome di Giraldi, il nome d'arte di Giraldi, e vi farò sentire un paio di canzoni di Castellina Fasi, riallacciandoci appunto ai brani precedentemente ascoltati, perché qua vedo sul secondo lato questa doppietta che si chiama Sotto il cielo di Parigi e Primula rossa, che adesso ci andremo ad ascoltare. Sapete, ci vuole del tempo, la Dea Calì, prendi e metti qua, per adesso ci andremo ad ascoltare questa doppietta, poi se mi prende bene ve ne farò sentire anche un'altra dell'orchestra Castellina Fasi, perché il tanto vituperato appunto ballo liscio romagnolo del dopoguerra va rivalutato, e quindi noi qua di Radio Wombat e in special modo io qua il vostro penafoco a Basement Records, siamo qua apposta. Quindi, orchestra Castellina Fasi, e adesso ci andremo ad ascoltare una dopo l'altra, Sotto il cielo di Parigi e Primula Rossa, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. E siccome sono preso bene da questo ballo liscio, adesso ci andremo ad ascoltare anche un altro brano di Castellina Fasi, giusto per smorzare l'atmosfera pesante di morte e di racconti politici dei primi dischi. Adesso ci andremo ad ascoltare questo nuovo brano, sempre di Castellina Fasi, soltanto sull'altro lato, Ridere fa bene, come facevo a non metterlo, sempre qua a Basement Records, Radio Wombat, orchestra Castellina Fasi, il top del ballo liscio romagnolo. E ridere fa bene. Questa appunto era Ridere fa bene dell'orchestra Castellina Fasi. E allora voi penserete che appunto in questo nuovo anno il vostro penafoco si sia completamente e totalmente rincoglionito, ma invece no, è perché questo Castellina Fasi mi serviva da introduzione a quello che secondo me è il vero recupero di questa puntata di Basement Records, che quando l'ho ascoltato la prima volta, cioè l'ho riascoltato poi non so per quante altre volte successive, perché a mio modestissimo parere è un autentico capolavoro. E stiamo parlando in questo caso di un 45 giri, la cui autrice e cantante è una cosiddetta Mirella. Mirella che poi ho scoperto essere la cantante di questo fantomatico Trio Marino, ovvero questo gruppo familiare folk formato da Alberto Bargagli, Eugenio Bargagli e Mirella Bargagli, appunto. Ma perché tutto questo? Perché è un 45 giri della fine degli anni 60, tra il 69 e il 70, di questo gruppo di stornellatori toscani, che è fantastico, perché la prima volta che l'ho ascoltato mi hanno ricordato tantissimo, per la goliardia e per i temi trattati, una leggenda della nostra regione come Riccardo Marasco. Soltanto la peculiarità è che appunto questo brano è cantato da Mirella Bargagli, ovvero da una donna, e mi direte cosa c'è di strano. Contate sempre che siamo alla fine degli anni 60 e adesso appunto questo disco l'ho preso, questo 7 pollici è stato recuperato perché il titolo del lato A è Una sposa alla Betone. Se seguite da qualche tempo Basement Records e Tonight Alive, conoscerete la mia immensa passione, per usare un eufemismo, per la montagna, e quindi non potevo non prendere a scatola chiusa un reperto del genere. Tra l'altro copertina bellissima, un disegno, sembra un dipinto, proprio un dipinto fatto con il pennello, e è una canzone assolutamente goliardica. Non vi voglio anticipare niente, però se vi piacerà, vi consiglio assolutamente di ascoltare anche il seguito che poi Mirella e il Trio Marino hanno fatto, che si chiama Il ritorno della sposa dalla Betone. In questo caso è la prima parte, ovvero Una sposa alla Betone. Non voglio aggiungervi altro, non voglio spoilerare altro, è solo da credo che sia solo da ascoltare questo disco, perché è veramente, veramente, veramente bello. La prima volta che l'ho ascoltato, dopo averlo preso, non so quante volte l'ho risentito dall'inizio, ridendo a casa come un matto e come un cretino che sono, ma forse mi darete ragione. Questa è Mirella, dalla fine degli anni 60, con Una sposa alla Betone. Questa è sempre Basement Records, ovviamente qui a Radio Wombat. Capolavoro. Conosco una sposina, sta sempre in allegria. Dalla mattina a sera cerca la compagnia. Marito parte presto al lavoro, se ne va. La sera quando torna gli dice come sta. Se tu sapessi, caro, quanto mi sento male. Mi gira assai la testa, non so più come fare. Forse un po' di montagna mi potrebbe guarire, tu mi vuoi tanto bene, non me lo proibir. Marito premuroso la manda alla Betone, l'affitta una villetta vicino alla stazione. Vedrai che qui nessuno mai ti disturberà, la cura che farai certo ti gioverà. Ma la sposina allegra, in men che non ti dico, passato un solo giorno fa subito l'amico. Conosce un macellaio che lì vicino sta, il salame tutti i giorni non glielo fa mancare. Il marito lavorando pensa alla sua sposina, dicendo sarà triste da sola poverina. E quando la domenica lui se la va a trovar, la vede con sorpresa sempre di più ingrassare. Lei gli dice, caro, ma guarda che fortuna, si vede mi fa bene il fresco al chiar di luna. Se lui gli si avvicina, gli dice stai più là, mi dole un po' la testa, non ti posso accontentare. E poi gli dice caro, tu non aver paura, c'è qui un macellaio, di tutto mi procura. Mi dà la carne fresca, banana e baccalà, di quello che ho bisogno non me lo fa mancare. Mariti state attenti alla villeggiatura, il male delle mogli solo un'estate dura. Al mare o alla montagna lo fanno per andare, d'accordo con l'amico il marito non lo sa. No, veramente capolavoro, cioè è una canzone fantastica e rinnovo l'invito ad andare ad ascoltarvi, se vi è piaciuta questa prima parte, il seguito, che appunto è il ritorno della sposa dall'abetone, che appunto vi immaginate stava già ingrassando in questa prima parte, e vi potete immaginare come sia andata a finire. Però in questo, appunto, da questo disco volevo farvi ascoltare anche il lato B di questo 7 pollici, che si chiama La Luna, Caino e l'Astronauta. Ora, particolarità di questo brano è che l'accompagnamento è letteralmente uguale, identico alla sposa all'abetone, però il tema è completamente diverso, perché sinceramente io non me lo sarei mai aspettato, visto il tenore da stornello e da goliardia e da presa per i fondelli tipica toscana. Questo direi che è un brano più politico, infatti credo vi possiate immaginare dal titolo, La Luna, Caino e l'Astronauta, parla appunto di quel periodo alla fine degli anni 60, dove nella guerra fredda tra America e Unione Sovietica c'era la corsa allo spazio, e quindi a me ha colpito particolarmente il totale cambiamento di tematica, anche se con lo stesso identico accompagnamento sonoro, e quindi ve lo farei sentire comunque, perché da un documento del genere direi che ne vale assolutamente la pena di questo recupero vinilico. Quindi adesso ci andremo ad ascoltare il lato B di Mirella e il Trio Marino con La Luna, Caino e l'Astronauta, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. E dove se no? Russi americani va in cerca di fortuna, ognuno vuol arrivare lassù dentro la luna, e già lo sanno bene cosa ci troverà, terriccio e polverone che niente costerà. Si accorgeranno quando ognuno sarà arrivato, ma farà di febbre le casse dello Stato. Le ali metteranno miliardi in quantità, in fumo se ne andranno senza più ritornare. A quei governanti non gliene importa niente, tanto che paga le tasse è la povera gente. Chi va a chiappar la luna di molto spenderà, e chi rimane a terra la cinghia tirerà. Poi quando gli va male la colpa è del destino, e invece non lo sanno che su c'è anche Caino. Se li vede arrivare la forca piglierà, in fondo ad un cratere lui ce li butterà. Dicendo forestiero il lunatorio è mio, di tutto questo gesso sono il padrone io. Le vedi quante buche ci sono qua e là, se ti ci butto dentro più non potrai scappare. Ma senti sto Caino quanto vuoi comandare, se vengo nella luna via non mi puoi mandare. Io devo far le prove con quel terriccio lì, se qualche cosa vale lo devo riferire. Le prove valle a fare laggiù sopra la terra, che anche voi sulla luna vorreste far la guerra. C'avete tanta gente ancora da sfamare, e tutti questi soldi che li spendete a fare. I soldi li spendiamo per fare esperimenti, che serve agli scienziati per illuminare le menti. Studiare l'universo per abitare su, perché giù nella terra noi non ci sentra più. Ve lo dice Caino che non è vero niente, vi vogliano tutti quanti imbrogliare solamente. Laggiù sopra la terra mangiar per tutti c'è, perciò non c'è bisogno venir da noi a me. I ricchi fanno come i bachi nella frutta, fan finta di assaggiarla poi se la mangian tutta. Se invece chi comanda usasse umanità, la terra a tutti quanti darebbe da mangiare. Meravigliosa, meravigliosa anche questo lato B di questo sette pollici, anche se l'accompagnamento sonoro è proprio uguale, identico, anche la cadenza del canto è proprio lo stesso, però appunto sempre di goliardia stiamo parlando, però molto più sul sociale, e alla fine era sociale anche la sposa alla betone, secondo me, comunque. E quindi secondo me, abbiate pazienza, ne valeva assolutamente la pena di sentirlo. E adesso cambiamo decisamente genere, perché il prossimo vinile di recupero è un altro 7 pollici. Mi aveva particolarmente colpito la copertina moderna, e mi ispirava al titolo, e quindi ho deciso di prenderlo, per poi scoprire di avere per le mani un documento abbastanza particolare, perché il prossimo 7 pollici che è qua sul piatto pronto a girare è un 7 pollici a nome Carmen and Thompson, che io pensavo fossero una coppia di un uomo e una donna, che si chiama Time Moves On. In realtà questi Carmen and Thompson erano due uomini, perché quello cosiddetto chiamato Phil Carmen in realtà si chiamava Herbert Hoffman, nato a Lucerna in Svizzera e poi cresciuto a Francoforte sul Meno in Germania, ed era un produttore e musicista tedesco, di lingua tedesca, che in realtà poi andando a scartabellare appunto sull'internet scoprì che inizialmente la sua carriera era iniziata come restauratore di libri, nonostante avesse fatto il conservatorio, e poi invece dopo decise di buttarsi nel mondo della musica una volta incontrato il bassista Mike Thompson, anche lui tedesco, ma che in realtà si chiamava Marcello Caruzzi, quindi sì, tedesco, ma di chiare clamorose origini italiane, e fondarono appunto il duo Carmen and Thompson. E mi direte voi, come nei casi precedenti, continui a esserti completamente rincoglionito? No, perché nei casi di vinili di recupero, visto che sono stati recuperati qua a Firenze, mi chiedevo per quali clamorose ragioni questo disco di un duo franco-tedesco fosse finito qua in Toscana. In realtà ho scoperto che il successivo album che segue questo singolo, questo 7 pollici Time Moves On, li porterà al Festival di Sanremo del 1981, dove si esibiranno e, per la cronaca, si posizioneranno e arriveranno sedicesimi in classifica di quel Festival di Sanremo del 1981, che tra l'altro ho scoperto essere clamorosamente condotto niente po' di meno che dall'accoppiata Claudio Cecchetto e Nilla Pizzi. E qui stenderei un velo pietoso e a questo punto ci andremo ad ascoltare questo vinile di recupero, però non il classico, premetto, non l'ho detto, Carmen and Thompson è un duo fondamentalmente di musica country, e questa Time Moves On appunto ebbe particolare successo, e poi portarono a Sanremo questo nuovo brano che si chiamava Follow Me. Ma in questo caso, visto che sono un rompipalle e faccio tutte le cose a modo mio, ci andremo ad ascoltare il lato B di questo singolo, che si chiama Natalie, così per puro spirito di contraddizione e soprattutto perché mi è piaciuta di più. E quindi siamo sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, Carmen and Thompson, Natalie, 1980. Thank you. questa era Natalie di Carmen and Thompson. Questo duo, quantomeno per me, assolutamente misconosciuto, che però, come tutti i vinili di recupero, ha una sua storia e delle sue peculiarità dietro, che mi sembrava il caso di ricordare. E allora i prossimi dischi cambiamo completamente genere, andiamo dall'altra parte dell'oceano e ce ne andiamo in America, ed è il momento dei pesi massimi. Abbiamo parlato appunto di folk e di musica pop sul versante europeo, e adesso metterò sul piatto questo LP di veramente un assoluto peso massimo della musica black a cavallo tra gli anni 50, gli anni 60 e gli anni 70. Volendo si può andare anche più in là, però credo che il fulcro della sua carriera fosse quello, e stiamo parlando di un'autentica leggenda come Wilson Pickett. Per fare un breve riassunto per quelli che ai loro non dovessero sapere chi sia un gigante come Wilson Pickett, appunto la sua carriera, la sua formazione è quella comune a molti altri grandi di quel periodo, ovvero veniva dalla musica gospel. Infatti nella natia Detroit, già da ragazzino formò il gruppo gospel chiamato The Violiners, e che tra l'altro già in tenerissima età, i Violiners, in tenerissima età di Wilson Pickett, i Violiners fecero da spalla a pesi massimi della musica black come Sam Cooke, i Soul Stirrers, gli Swan Silvertones e i David Sisters, in tournée che già giravano interamente tutti gli Stati Uniti. Però nel frattempo, quando la famiglia di Pickett si ingegnava per sbarcare il lunario, Sam Cooke, Aretha Franklin, Al Green, aggiungerei anche Salomon Burke, iniziarono a suonare musica profana, che allora come oggi era la scelta più redditizia in fatto di remunerazione economica, e quindi Wilson Pickett si persuase a fare la stessa scelta. E la prima occasione realmente importante che gli venne offerta fu l'invito ad unirsi ad inizio del 1959 al gruppo dei The Falcons, una delle prime formazioni a portare il gospel in contesti più da grande pubblico, aprendo così la strada a quella che poi sarà definita soul music. I Falcons avevano già alcuni importanti membri al seguito, che dopo divennero famosi artisti solisti. Infatti quando Wilson Pickett entrò a far parte del gruppo, erano già presenti tra i suoi membri personaggi come Eddie Floyd e Sir McRice. E il più grande successo di Wilson Pickett con i Falcons arrivò all'inizio degli anni 60, nel 1962, con I Found Love, di cui era il cantante principale, e che raggiunse la sesta posizione delle classifiche rhythm and blues del periodo. Subito dopo aver registrato questo successo, Wilson Pickett firmò i suoi primi dischi da solista includendo I'm Gonna Cry, la sua prima collaborazione con Don Conway, figura importante della soul music del Sud. In questo periodo, tra l'altro, Wilson Pickett registrò anche una demo per una canzone che aveva contribuito a scrivere, intitolata If You Need Me, una ballata soul contenente un parlato, e Pickett mandò, la leggenda narra che, leggenda fino a un certo punto, perché i fatti comprovano poi questa situazione, mandò il demo alla Atlantic Records, che però, sentendo questo demo, decisero di farlo cantare a Salomon Burke, che era già faceva parte della scuderia dell'Atlantic Records, e come ci ricorda appunto Wilson Pickett nella sua autobiografia, fu proprio uno dei momenti, fu la prima volta che piansi in vita mia, avrebbe poi ricordato nella sua autobiografia. Però il successo l'avrebbe raggiunto da lì a poco. Infatti arrivò definitivamente quando Wilson Pickett registrò It's Too Late, un pezzo originale scritto da lui stesso, entrato nelle classifiche nel 1973 e che raggiunse la posizione numero 7 nella classifica Rhythm and Blues americana. E a questo punto, dopo questo grande successo, convinse la Atlantic Records a rilevare il suo contratto dalla piccola etichetta sonora per cui stava incidendo fino adesso e entrare nel grande mondo delle major. E infatti la Atlantic lo fece lavorare con il famosissimo produttore Bert Burns, con cui Pickett incise Come Home Baby, un duetto pop con la cantante di New Orleans Tammy Lynn, ma il pezzo sfortunatamente non riuscì a entrare nelle classifiche del tempo. Ma la definitiva consacrazione di Wilson Pickett sarebbe arrivata negli studi di registrazione della Stax a Memphis, dove incise la mitologica e leggendaria In the Midnight Hour del 1965, molto probabilmente il suo pezzo più famoso in assoluto. E appunto, al di là della genesi, della storia che c'è dietro alla registrazione di In the Midnight Hour, infatti registrò questo famosissimo pezzo che spero che tutti conosciate, insieme ai leggendari Steve Cropper e Al Jackson dei Booker T and the MGs, ovvero la... ora non mi viene il termine, la label band, come ho detto tante volte, della Stax Records, che appunto gli confezionò un arrangiamento su misura per quello che poi è diventato un assoluto capolavoro della musica soul, come In the Midnight Hour. Tra l'altro Wilson Pickett registrò altre 3 session alla Stax in quel viaggio a Memphis, che furono, oltre a The Midnight Hour, anche Don't Fight It, 99 and One Half, e oltre appunto a In the Midnight Hour. Però appunto, dopo tutto questo prologo per far sì che anche chi non conoscesse Wilson Pickett venisse introdotto alla sua leggendaria figura, è bene adesso andarci ad ascoltare un pezzo di questo vinile dopo tante chiacchiere, e vi farò ad ascoltare questo brano che si chiama She's Looking Good. Questo è Wilson Pickett, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Questa era She's Looking Good di Wilson Pickett. E appunto da questo album di recupero, che l'album, mi ero scordato di dirlo nella presentazione perché mi ero perso un po' nel presentarvi chi fosse appunto Wilson Pickett, mi ero scordato di dire che questo album di recupero è proprio un LP di Wilson Pickett del 1968, edito su Atlantic, è I'm in Love, un disco che tra l'altro contiene diversi pezzi che sono finiti in classifica in quegli anni e che hanno fatto volare la già straordinaria carriera di Wilson Pickett, e ci andremo sicuramente, senza dubbio, ci andremo a sentire un altro brano, senza però non dirvi che nelle successive sessioni Pickett non sarebbe poi ritornato alla Stax, perché il proprietario dell'etichetta, Jim Stewart, non consentì più produzioni esterne dopo il dicembre del 1965, e come risultato Pickett andò negli studi della Fame, un altro leggendario studio di registrazione della musica soul, con legami ancora più stretti con la Atlantic Records, da cui proviene questo vinile di recupero che abbiamo sul piatto stasera. E tra l'altro nota a margine, questo questo disco registrato per Fame fu registrato in un magazzino ricavato da un deposito di tabacco ricavato nei leggendari Muscle Shoals in Alabama, e la Fame ebbe una grandissima influenza nel dare una forma a gran parte della musica soul, e Wilson Pickett vi registrò appunto alcuni dei suoi brani di maggior successo, tra cui Mustang Sally, Funky Broadway e forse quella che è considerata la versione definitiva di Land of Thousand Dancers. Non ci andremo ad ascoltare nessuna di queste perché non è contenuta appunto nell'LP I'm in Love del 1968, ma invece adesso ci andremo ad ascoltare il brano di apertura del lato A di questo LP, che è Jealous Love, scritta tra l'altro da Bobby Womack e King Curtis, due autori per niente minori, tra virgolette, e capiamoci. E questo è sempre Wilson Pickett, qui siamo sempre a Basement Records e naturalmente siamo sempre qui nella regia di Radio Wombat, e dove se no. Meraviglia, meraviglia, meraviglia di Wilson Pickett. E questa appunto era Jealous Love, brano di Bobby Womack e di King Curtis nell'interpretazione del nostro Wilson Pickett. E allora facciamo un sacco di macello. La Dea Kali non è, no, no, non è molto, come si dice, molto fine nei suoi movimenti, soprattutto se, se in questo caso è interpretata da me stesso. Abbiate pazienza, come sempre, come ogni puntata di Basement Records. Però da gigante a gigante, a gigante anzi, rimaniamo sempre in, negli Stati Uniti, e in questo caso il prossimo vinile, il prossimo 33 giri, è un 33 giri dei mitologici Four Tops, un gruppo leggendario, un quartetto vocale americano. Cioè, spero che conosciate anche i Four Tops, però per dovere di cronaca mi sento di dovervi fare appunto un riassuntino, anche perché se no io qua che ci sto a fare, che faccio, metto solo i vinili e sto zitto. E quindi nel caso in cui i giovani e i meno giovani non dovessero conoscere quel mitologico quartetto che sono stati i Four Tops, sappiate che furono un quartetto puramente vocale americano di Detroit che contribuì in maniera fondamentale a definire il sound della leggendaria Motown Records della Motor City negli anni 60. Il classico repertorio del gruppo variava tra musica soul, rhythm and blues, poi negli anni successivi arrivarono anche alla disco, doo-wop, jazz, musica teatrale. Avevano un sacco di, avevano dei confini non ben definiti, che però riunivano tutti all'interno del loro riconoscibilissimo stile musicale. Inizialmente nacquero come Four Aims, non come Four Tops, e il cantante leader era il mitologico Levi Stubbs, coadiuvato da Abdul Duke Fakir, Renaldo Obi Benson e Lawrence Payton. E tra l'altro vale la pena ricordare che i quattro rimasero insieme per ben quattro decenni, esibendosi dal 1953 al 1997, senza mai cambiamenti di formazione. I Four Tops fecero parte di una serie di gruppi leggendari, tra cui Smokey Robinson and the Miracles, le Marvelette, Martha Reeves and the Vandellas, i Temptation e Diana Ross and the Supremes, che definirono in assoluto il Motown sound degli anni 60, che poi appunto fecero la fortuna dell'etichetta all'interno di tutti gli anni 60. Tra l'altro, peculiarità appunto che contraddistingue i Four Tops dagli altri gruppi vocali in voga in quegli anni era che appunto il loro leader Stubbs fosse un baritono ed era il cantante principale appunto, mentre la maggior parte degli altri gruppi vocali maschili e misti dell'epoca, il band leader e la voce solista in realtà fosse formata prevalentemente da cantanti e cantautrici che avevano che erano dei tenori. Invece appunto Stubbs fosse un baritono, cosa che contraddistinguerà i Four Tops all'inizio, non solo all'inizio ma durante tutta la loro carriera. Il gruppo era principalmente un gruppo vocale maschile e era chioadivato autoralmente nella scrittura delle canzoni dal leggendario trio della musica nera Holland, Dozier, Holland, che veramente ha composto e scritto centinaia e centinaia di hit per la musica black di quegli anni. Tanto vale ricordare, solo per quanto riguarda i Four Tops, e i maggiori successi scritti dal trio Holler, Dozier Holland, appunto I Can't Help Myself, e Reach Out I'll Be There, Ain't No Woman del 1973, che tutte e tre raggiunsero le vette delle classifiche americane, portando nel pantheon della musica popular, e in special modo della musica black, il quartetto dei Four Tops. E da questo disco, che come nel precedente ancora mi ero scordato di dirvi qual era, questo disco è un disco live, si chiama Live in Concert del 1974, e appunto da questo disco ci andremo ad ascoltare la terza traccia, che in realtà è un medley di Love Music, Reach Out I'll Be There e Standing in the Shadows of Love, che sono forse tra i massimi successi che incisero quel gruppo leggendario che sono stati i Four Tops. Ditemi voi come potevo non fare a non recuperare un disco del genere. Ne sono assolutamente strafelice, e appunto adesso vi pupperete questo medley di tre canzoni, una di seguito all'altra. Appunto, essendo un medley, sono, come si direbbe oggi, è come se fossero mixate tutte insieme. Proprio questa è la particolarità del medley. E questi sono i Four Tops, sempre qui a Radio Wombat, Basement Records, recuperi vinilici. I'm gonna take you with me. When the good Sorio! Veramente fantastico. Cioè, i Four Tops sono stati uno dei primi gruppi che ho conosciuto della scuderia Motown nella mia infanzia, grazie ai dischi del mitico Stefanone, che non posso altro che ringraziare come sempre per tutta la conoscenza che mi ha infuso involontariamente nella mia gioventù, e quindi quando li riascolto mi mandano letteralmente di fuori. Sono fantastici, mi piacciono tantissimo, e quindi non posso fare altro che mettervi un altro pezzo, secondo me altrettanto leggendario, perché faceva parte del seguito di un grandissimo classico della Blaxploitation, ovvero The Shaft. Questo è il seguito, Shaft in Africa, e il pezzo che ci andremo ad ascoltare adesso, sempre da questo LP dei Four Tops, faceva parte appunto della colonna musica, come mi ricorda sempre di dire la Virgi, di appunto Shaft in Africa. Siamo nel 1974, i Four Tops ormai avevano lasciato la Motown Records, non senza polemiche, della natia Detroit, perché appunto poi la spostarono la produzione sulla costa pacifica, cosa che generò appunto la cosiddetta diaspora dei gruppi all'interno della Motown Records. E i nostri Four Tops, pur di non lasciare la natia Detroit, si accasarono alla ABC Downhill e continuarono nell'onda dei loro grandi successi. E questa, che fa parte appunto della colonna musica di Shaft in Africa, che ci andremo a ascoltare appunto live, perché presa da questo LP, che racchiude solo la registrazione di loro esibizioni live, ci andremo ad ascoltare quel pezzo fantastico che io adoro, che è Are You Man Enough, della colonna musica appunto, che poi finì all'interno del sequel di uno dei cult della Blaxploitation, ovvero di Shaft. E questa è Are You Man Enough dei Four Tops, live, in concerto, non so dove, non sono arrivato a informarmi così tanto, ma questa è sempre Basement Records, Radio Wombat, e questi sono i mitologici Four Tops. non vi nascondo che ero a ballare proprio come un imbecille qui da solo dentro la regia di Radio Wombat. Fosse stato per me, ve l'avrei fatto ascoltare tutto questo disco, perché i Four Tops, nonostante fosse stato moltissimi anni che non me le riascoltavo, però mi fanno sempre lo stesso effetto e letteralmente li adoro. Uno dei miei gruppi preferiti dell'epoca Motown. Però purtroppo anche stasera ormai siamo giunti alla fine di questa puntata di Basement Records, e quindi, come mio uso e costume, alla fine di ogni puntata del sabato sera vi rinnovo l'appuntamento qua sulle frequenze di Radio Wombat, ricordandovi il programma e il palinsesto della radio per la giornata di domani, domenica, che come sempre inizierà con la diretta di Container alle ore 10. Container, che appunto contiene, come dice il nome, tutte le collaborazioni e i contenuti che non sono riusciti a trovare un posto all'interno dei programmi di Radio Wombat, e quindi vi verranno riproposti domani alle ore 10 in Container. Poi il programma di domani proseguirà alle ore 11 con la replica dei Libri Ribelli, la selezione di libri, diciamo audiolibri narrati da Sansa qui sulle frequenze di Radio Wombat. E poi il nostro palinsesto proseguirà con il consueto notiziario anticlericale, appuntamento ormai fisso delle domeniche su Radio Wombat, che andrà in diretta appunto domani da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo, per aggiornarci sulla situazione ecclesiastica vigente in Italia e sulle malefatte che vengono perpetuate. Poi il nostro palinsesto prosegue alle ore 14 con la replica dell'ultima puntata di WookWops con i nostri mitici inviati che ci aggiorneranno sulle evoluzioni della situazione al di là dell'Atlantico, per poi proseguire con la diretta, però vi ricordo una volta ogni 15 giorni, quindi non ricordo, in questo caso difetto mio, se sarà una nuova puntata o sarà una replica della precedente andata settimana scorsa, di Poyuit, il programma di letteratura, di aggiornamento letterario, diretta emanazione del Festival della Letteratura Sociale. E poi il nostro palinsesto proseguirà con l'ennesima diretta e con il consueto, direi, appuntamento della domenica pomeriggio con la musica classica della Fuga del Gatto, con Bloody Mary e la Virgi, che saluto come sempre, che ci faranno ascoltare nuove chicche selezionate da loro per aggiornarci ed acculturarci sulla musica classica qui su Radio Wombat, diretta che inizierà, come ricordo, alle ore 18 domani. Il nostro programma poi prosegue con un'altra diretta che va in diretta una volta ogni 15 giorni, quindi anche per questa vale lo stesso discorso di For You It, e in questo caso stiamo parlando dell'Arte del Vizio, che andrà in palinsesto dalle ore 19 alle ore 21 per poi chiudere il palinsesto dei programmi domenicali di Radio Wombat con la nuova trasmissione, nuova relativamente, ovvero il furto di trasmissione altrui, che la redazione di Radio Wombat avrà selezionato per voi una trasmissione da riproporvi presa direttamente, anzi, come dice il titolo, letteralmente rubata alle nostre radio amiche, sorelle e consorelle, appunto, della ciurma pirata e non, che comunque valgono la pena di essere riproposte anche qua su Radio Wombat per chi non se le potesse ascoltare in altro modo. E quindi a questo punto, avendovi riaggiornato sul palinsesto di domani di Radio Wombat, non mi rimane altro che augurarvi una buona prosecuzione del sabato sera, un ottimo weekend e rinnovare l'appuntamento con il vostro disgraziato di un pena poco a settimana prossima con una nuova puntata di Basement Records, o forse chissà a sorpresa una nuova puntata di Tonight Alive, chi lo sa. Restate sintonizzati qua sulle frequenze di Radio Wombat per scoprirlo, e non posso darvi che un caloroso abbraccio e un saluto e ribadire un ottimo fine settimana a tutti voi ascoltatori di Radio Wombat. Un carissimo saluto e a settimana prossima. Radio Wombat. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore.